butta giù sta base. Andre butta giù sta base, l'ho travolta come John. Queste rime puoi toccarle, sono touch come l'iPhone. Come King Kong, quando arrivo impara la città. Sono Simo e come Pino insegno, quindi impara a fare il rap. Senti qua, vado avanti con un kick e un clap. Questo mad suono, mette la scimmia più del crack. Super blunt come grido, di nessuno mi fido. Vedo un pacco, torni a prenderlo di nuovo e me la rido. Tu sei un cane come Fido, torni a casa come lessico. Il mio lessico con più concetti che Arbafiera in Messico. Prendo due etti bro e nella schiena sale un brivido. Qui ci vuole far fuori, frate lo sbirro e politico. Io critico sto mondo, fra perché lo vivo in bilico. Dalla piazzetta al vicolo, un amante del pericolo. Nel circolo mad boys, dopo che mi fumo un joint. Fra una macchina da rime con su scritto insert coin. Ho una voce da sfogare, ma c'ho l'ansia che mi sale. Qui c'è un palco da spaccare, fra non hai capito male. Mad boys, nelle casse questo impianto fa saltare. Se voi non vi fidate, venite a verificare. Ho una voce da sfogare, ma c'ho l'ansia che mi sale. Qui c'è un palco da spaccare, fra non hai capito male. Mad boys, nelle casse questo impianto fa saltare. Se voi non vi fidate, venite a verificare. Venite a verificare dalle nostre parti fra. Che anche se tutto va male sorridiamo ed è così che va. Carità su questa strada che è senza pietà. Non ti inculerà nessuno se fai pop in sta città. Per la bamba viaggi su a Milano con l'ansia. Se sei avido come dice Nata si nomi panza. E danza il mio cervello chiuso in questa stanza. Non ho imparato storia a scuola ma in giro fa danza. Canta di ti pelle, le tue storie sono belle. Ma sai che chi parla troppo se lo fanno nelle celle. Ciò che scrivo lo vivo sulla mia pelle, di rima fra una dedica per tutti i miei fratelli e le sorelle. Tu fai ridere fratello come chi mette le bretelle. Io ti mangio come tu fossi un sacchetto di fritelle. Io un ribelle e piede libero, sto in giro nella city. Noi ci impadroniamo di sta festa anche senza gli inviti. Ho una voce da sfogare, ma c'ho l'ansia che mi sale. Qui c'è un palco da spaccare, fra non hai capito male. Mad boys, nelle casse questo impianto fa saltare. Se voi non vi fidate, venite a verificare. Ho una voce da sfogare, ma c'ho l'ansia che mi sale. Qui c'è un palco da spaccare, fra non hai capito male. Mad boys, nelle casse questo impianto fa saltare. Se voi non vi fidate, venite a verificare. Ancora un tiro, aspiro a pieni polmoni. Ma di sta gente di merda ce n'ho pieni coglioni. Paragoni chi rimane vero a chi si sente fiero. Paragoni chi si fuma nero a chi si fuma lero. C'è chi fa l'esperto ma non ci capisce davvero. Preferisce fumo marcio che due canne di Primero. Vado avanti sterminando MC, chiamami Terminator. Io ti stendo per terra come una bomba di Isolator. Lemonize, nuova specialità come X-State. Fra tu cadi dritto in basso, Roger Roger Mayday. Hey hey, senza via d'uscita come il serpente di Snake. Ho fatto una magia, frate, tu chiamami Mandrake. Come Jake, serve in testa, sono in testa fra un bidocchio. Mettiti a 90 che racconta una bugia a Pinocchio. Su Pinocchio si sa, fondi insieme alla tua base. X, Andrew's Ride, voi restate alla larga. Ho una voce da sfogare, ma c'ho l'ansia che mi sale. Qui c'è un palco da spaccare, fra non hai capito male. Mad boys, nelle casse questo impianto fa saltare. Se voi non vi fidate, venite a verificare. Ho una voce da sfogare, ma c'ho l'ansia che mi sale. Qui c'è un palco da spaccare, fra non hai capito male. Mad boys, nelle casse questo impianto fa saltare. Se voi non vi fidate, venite a verificare. Su, Mad boys, Simo X, Andrew's Ride. Gente vera, rime vere. X-Tape, su 2011 e per tutti gli anni a venire. Genova, Bolzaneto, zio, fuck you.